Nessuno viaggia, nessuno incontra clienti, i clienti non vogliono incontrare nessuno, gli aeroporti sono vuoti, gli aerei non decollano, ma loro ci sono sempre. Meazza e la Rosciani, che è il virus, mai li incontri sulla sua strada. Avanti ragazzi, avanti così! Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno. No, io il buongiorno questa mattina? Sì, certo, ma ti sei messa il rossetto perché non potendo vederti sul Facebook, non so se hai messo il rossetto oppure no, e quindi non so se vuoi dare tu la notizia con cui abbiamo deciso di cominciare la nostra puntata. Allora, come potete capire, con questa condizione di smart worker, ecco, proprio l'abbellimento non è la priorità della giornata. Ci proviamo a tenerci un po' carine, anche se non incontriamo nessuno, ma in realtà tutto questo preambolo serviva per raccontare questa notizia molto carina. Siccome vogliamo mantenere di buon umore i nostri ascoltatori, allora anche stamattina ne abbiamo trovata una. Le nostre notizie frufru, le chiamiamo sempre così. E allora volevo raccontarti, Mauro, che in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo adesso, anche un rossetto può fare la differenza. Il primo ad accorgersene fu tanti anni fa Winston Churchill, durante la Seconda Guerra Mondiale. Che cosa fece? Ordinò di razionare i cosmetici, tranne però il rossetto, soprattutto di colore rosso, perché a quanto pare lui constatò che era d'aiuto sia per chi lo indossava ma anche per chi lo vedeva. Di questa cosa si è accorto poi molti anni dopo. Nel 2001, il tragico anno della caduta delle Torri Gemelle, anche il presidente di Estée Lauder, una grandissima casa di cosmetica, il presidente era Leonard Luder, e lui si accorse proprio che in quel periodo, subito dopo appunto questa tragedia, le vendite dei rossetti aumentarono negli Stati Uniti di oltre l'11%. Ma non solo, te ne potrei raccontare anche un'altra di circostanza. Nel settembre del 2008, lo ricorderete, fallisce Lehman Brothers, a cui seguì una delle più grandi e importanti crisi finanziarie mondiali, e anche in quel periodo le vendite dei trucchi e dei rossetti non si fermarono, anzi aumentarono moltissimo in Italia di oltre il 5%. E quindi siamo molto curiosi di vedere se in questo periodo, compatibilmente con la possibilità di comprarli, perché non possiamo neanche andare in profumeria a rifornirci, ma vedremo se il rossetto sarà un test importante di tenuta dell'economia e soprattutto di tenuta emotiva in questo momento di tutti noi, soprattutto delle donne. Questo è il lipstick index, l'indice proprio del rossetto. L'indice del rossetto che di solito appunto aumenta, l'indice indica esatto. Questo, c'è cioè l'aumento di vendita di cosmetici per così dire di base, perché possiamo considerare il rossetto in questo modo, proprio nei periodi di difficoltà, nei periodi di crisi. Sembra che ci sia una correlazione diretta, o almeno così è successo nelle volte precedenti. Ricordiamo, Deborah, l'e-commerce è sempre consentito, quindi magari se qualche profumeria vuole appoggiarsi ai rider, ecco, in questo periodo può consegnare. Comunque, no, questo perché appunto ho letto da qualche parte sul sito del Sole 24 Ore, mi pare che va molto l'effetto nude e il rosso, sono le tendenze principali della primavera, nell'attesa appunto di poter tornare a baciarvi tutte quante, soprattutto perché puoi ancora parlare anche di rimmel? No, non sono molto esperto, ti ringrazio. Invece di cosa parliamo oggi? Diciamolo già ai nostri ascoltatori. Vabbè, diciamo che questa notizia ci serviva anche ad introdurre l'approfondimento di oggi. È giovedì, noi andiamo avanti anche con Investire Informati, anche se poi da oggi a tutte le prossime puntate continueremo naturalmente a offrire ai nostri ascoltatori tutte le necessarie informazioni di servizio per affrontare questo momento così terribile per tante persone, per tante famiglie, per tanti individui, per tante piccole imprese. Oggi ritorniamo con Investire Informati perché naturalmente c'è bisogno di capire anche come confortare in questo momento tutte quelle persone che temono per la tenuta dei propri risparmi. Scopriamo che viene confermato il trend di mantenimento dello stock di risparmio nel nostro paese, però chissà se qualcuno ha già pensato a come poterlo impiegare e poterlo utilizzare in questo momento, magari proprio per gestire la finanza della famiglia, che in questo periodo viene stressata parecchio per le questioni che sappiamo. Per cui avremo con noi ospite oggi, come sempre, una figura di valore mondiale, Ugo Loser, amministratore delegato di Arca Fondi SGR. Abbiamo tante cose da raccontare, peraltro c'è sul mercato oggi un altro tema interessante che molti stanno monitorando, un po' anche quello che è stato l'effetto delle parole di Mario Draghi al Financial Times. Ha dato la sua ricetta per fronteggiare questa grave crisi economica e magari poi avremo modo di commentare con lui anche questo, oltre che tante altre cose. Guarda, Ugo Loser è già addirittura collegato con noi grazie al provvido intervento, si potrebbe dire, della badante di prossimità, che oggi è Elisabetta Fusconi, badante da remoto. Bene. Come sempre, Marco Lombardo. Allora diamo il benvenuto, poi gli chiederemo di attendere qualche minuto la lettura del nostro giornale radio del risparmio, ma benvenuto a Due Denari a Ugo Loser, amministratore delegato di Arca Fondi SGR. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, lei intanto si prepari così consultando analisi e anche magari la sfera di cristallo per capire quando potremo avere tempi più tranquilli. Noi, grazie all'aiuto di Filippo Aureggi, quest'oggi in regia, passiamo invece al giornale radio del risparmio. E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio. Cara Deborah, tu sai che bisogna sempre leggere il Sole 24 Ore, le pagine di Norme e Tributi, soprattutto religiosamente. Oggi bisogna leggere però l'intervista, cioè la dichiarazione rilasciata a Davide Colombo da Pasquale Tridico, presidente dell'INPS. Sono tra le prime pagine del Sole, esatto. Pesca fior fiore, come fai tu, dalle sue dichiarazioni. Un'antologia delle dichiarazioni. Allora, innanzitutto, per la cassa integrazione alle aziende non sarà richiesta relazione tecnica, chiederemo solo l'elenco dei lavoratori beneficiari della cassa, questo ha detto il presidente dell'INPS. Tra l'altro, dalla settimana prossima assicura ci sarà il via a tutte le domande per tutte le categorie che ricevono i bonus, quindi compreso quello che è al momento il più richiesto, il più gettonato nelle vostre domande, cioè i 600 euro che vengono dati ai lavoratori autonomi. Tridico ha anche segnalato che ci sarà una procedura unica semplificata per avere il PIN, cioè quella password identificativa che serve per accedere appunto a questi servizi IMSS. Si manderà direttamente sul cellulare, quindi si taglia il discorso di ricevere per posta la seconda parte del PIN. Sarà tutto molto semplificato in ragione dell'emergenza. Quando si potranno presentare domande del bonus è un'altra domanda molto richiesta, ovviamente. La risposta è settimana prossima, dal 31 marzo in poi. Quindi noi, Deborah, il 31 marzo non faremo altro che stare sul sito dell'INPS e verificare se tutto quanto funziona. Benissimo. Come verranno effettuati i pagamenti? Allora, direttamente sull'IBAN del beneficiario per i vari bonus e indennizi che sono previsti nel decreto legge numero 18, e sulla cassa integrazione le procedure sono addirittura già online. Ultima cosa che ti voglio dire, Deborah, il presidente ci assicura che non c'è un click day per queste indennità, cioè non è che a un certo punto i soldi, chi si è prenotato dopo non riceve più i fondi, non riceve più la risorsa, perché il governo tra l'altro ha assicurato che i fondi ci saranno e saranno comunque questi fondi, questi bonus sempre finanziati. Quindi il presidente ha detto non c'è un click day, non c'è bisogno di fare una specie di sprint telematico per assicurarsi l'accesso ai bonus. Molto di più sul Sole 24 Ore. Io invece volevo raccontarvi alcune cose che riguardano il mattone, il settore immobiliare. Come tanti settori adesso, questa è una crisi veramente imponente, importante, che sta riguardando democraticamente purtroppo tutti i comparti, tutti i settori di investimento. Il settore immobiliare italiano si trova a fronteggiare una situazione inedita, dalle conseguenze potenzialmente drammatiche, non usa mezzi termini l'ultimo osservatorio diffuso ieri sul mercato immobiliare da Nomisma, peraltro anche ieri per questo istituto, appunto è stata sperimentata la presentazione via streaming dei dati di questo rapporto, ne vengono presentati due ogni anno. Il nemico più pericoloso per l'economia, dice Nomisma, è quello che ancora non si è manifestato, l'impoverimento che scaturirà come effetto indotto dall'inazione coatta, quindi parole molto importanti. Detto questo, per quello che riguarda i numeri, quali sono le previsioni che Nomisma fa, soprattutto per quello che riguarda il settore residenziale, si prevede nei prossimi anni una perdita tra i 54,5 e i 113 miliardi di euro di fatturato per il comparto dell'edilizia. Con riferimento ai prezzi, la società bolognese stima flessioni medie comprese fra il meno 1,3% e il meno 4% nel biennio 2020-2021. E quindi, secondo Nomisma, l'immobiliare sarà uno di quei settori che pagherà un tributo fra i più alti, derivante appunto da questa crisi, nonostante, dice Nomisma, la capacità di resistenza al deterioramento dell'economia dimostrata dal comparto prima di questa terribile ondata virale. E peraltro, questo è un tema che noi abbiamo anche affrontato a Due di Denari, interpellando il mondo dei notai. Come sapete, in questo periodo c'è grande disorientamento da parte di tutte quelle famiglie che si stavano accingendo a stipulare un rogito per comprare la prima, la seconda casa, insomma per comprare un immobile. A complicare ulteriormente le cose lo rilevano alcuni giornali in questi giorni, ma anche il mondo dei notai in realtà lo stanno rilevando. C'è la questione che le conservatorie dei registri immobiliari hanno chiuso gli accessi al pubblico, quindi gli atti non possono essere trascritti, anche se teoricamente i notai potrebbero trasmetterli per via telematica, e questo comporta il blocco praticamente definitivo per tutte quelle compravendite che magari anche in maniera un po' improvvisata potevano essere finalizzate, anche magari con una presenza davanti ad un notaio di poche persone. Ci raccontava qualche giorno fa appunto un notaio che qualche cosa si poteva anche riuscire a fare. In realtà, anche con questo blocco di questo importante ufficio, a questo punto c'è il blocco totale di tutte le finalizzazioni appunto delle attività di compravendita. Mauro. Cara Debora, allora a questo punto, siccome il tempo fugge e non si arresta un'ora, come diceva il poeta, e volevo solo ricordare i numeri di telefono ai quali gli ascoltatori possono rivolgersi per entrare in contatto con noi, con il nostro ospite, già ve l'abbiamo presentato, Ugo Loser, amministratore delegato di Arca Fondi SGR. I numeri sono il numero verde 800240024 per intervenire in diretta, 349-238-6666 invece per messaggi SMS e WhatsApp. Mi chiedono, poiché qualcuno ci segue anche da Facebook e dai vari canali che consentono la visione e non solo l'ascolto, mi chiedono: ma perché porto la mascherina coricata sul mento? Solo per andare in onda, vi assicuro che non appena finisce la trasmissione la riporto nella posizione a concia. Tutto ciò premesso, cara Debora, e prima di partire con lo spazio degli investimenti, la pillola di Dillo a Due di Denari. Dillo a Due di Denari. Buongiorno Debora e Mauro, mi chiamo Paolo ed ho piccola attività commerciale a Milano, chiusa ormai da un mese. Ci hanno chiesto giustamente di stare a casa e hanno decantato il modello italiano come quello da seguire nel mondo. La differenza è però che negli altri paesi le chiusure sono state seguite dalla certezza di aiuti alle imprese, professionisti, alle famiglie, dell'ordine di centinaia se non migliaia di miliardi. Da noi hanno messo sul tavolo 25 miliardi, che sono oggettivamente una miseria. È chiaro che tenere in quarantena 60 milioni di italiani, non dando alcuna certezza a una gran parte di loro, non può durare, neppure se usano la strategia della paura del contagio o le forze dell'ordine. Quindi servono soldi freschi per onorare i nostri impegni. Io ho ricevuto solleciti per il pagamento di bollette e affitti per circa 10.000 euro che non so come pagare, ma non è neanche giusto ribaltare i miei problemi su chi sta prima o dopo nella filiera. Quindi il governo metta mano al portafoglio, eroghi velocemente un contributo, magari in percentuale sul fatturato dello scorso anno. Io mi chiudo, mi fai chiudere, ma tu paghi, Stato, paghi. Interventi basati su sconti fiscali o crediti d'imposta non servono a nulla. Provino loro, questi signori, a dire che pagano gli stipendi dei dipendenti pubblici che cantano sui balconi con un credito d'imposta. Debora, Draghi però più o meno ha detto le stesse cose del nostro ascoltatore, forse l'aveva sentito sì. In anteprima o no? Non so che cosa dirti, so che praticamente il commento di Mario Draghi al Financial Times è stato abbastanza significativo. Nella sostanza, bisogna incrementare notevolmente il debito pubblico per evitare che ci sia un tracollo dell'occupazione, perché le ricadute a livello sociale sarebbero drammatiche. E quindi, insomma, io ho veramente sintetizzato ai massimi termini le dichiarazioni appunto dell'ex presidente della Banca Centrale Europea, che per la verità viene invocato da molti in questi giorni per essere direttamente coinvolto nella gestione di questa crisi. Addirittura Mario Monti aveva parlato di un suo possibile, un auspicabile suo coinvolgimento come presidente di questo governo di salute pubblica. E quindi non lo so, insomma, so che le problematiche sono tanti e ogni categoria giustamente lamenta di non avere adeguata attenzione da parte delle istituzioni pubbliche. Come fare ad accontentare tutti sarà veramente una sfida molto rilevante prossimamente. Mauro. Cara Debora, allora cominciamo, apriamo il nostro spazio per andare a guardare questa volta nel risparmio e sui mercati che ci stanno dando veramente un po' il mal di testa in questi giorni, con delle altalene e delle oscillazioni fortissime. Apriamo lo spazio con l'abituale sigla di Investire Informati. Investire Informati. E allora Mauro, do nuovamente il benvenuto al nostro ospite di questa mattina, di nuovo ben trovata ad Ugo Loser, amministratore delegato di Arcafondi SGR, che inaugura con noi questo spazio di Investire Informati. Li ritroveremo ospiti anche in altre puntate. Dottor Loser, buongiorno di nuovo e grazie. Buongiorno. Allora, all'inizio del 2020, noi l'abbiamo ricordato tante volte, era stato contrassegnato in pratica solo da buone notizie, perché Mauro, te lo ricordi, c'era stato l'accordo Stati Uniti e Cina sui dazi che ci aveva tenuto in ballo per almeno 2 anni, e questo, se ci riflettiamo, è un tema letteralmente scomparso adesso dalla cronaca finanziaria. Poi il mercato aveva digerito Brexit, le borse mettevano a segno un record dietro l'altro, persino Piazza Affari era tornata su livelli che non vedeva dalle 2008. Le proiezioni mondiali ci indicavano un mondo in crescita, forse non a ritmi forsennati, ma sicuramente costanti. E poi è arrivata la pandemia che ha travolto tutto e tutti. Adesso il mondo è in piena emergenza sanitaria, finanziaria, è una crisi che sta diventando economica, e noi lo abbiamo detto più volte, speriamo che non diventi sociale, ma le preoccupazioni sono molto ampie. La finanza ha già vissuto momenti di crisi rilevante, forse non di questa portata, ma sicuramente significativa. In genere il sistema rialza la testa e si riparte, e qui la sfida è proprio capire come e quando potremmo ripartire, con che sentimento anche nel cuore e con che capacità anche finanziaria per poter sostenere queste enormi difficoltà in cui molte categorie professionali, molte famiglie, molti risparmiatori, molte imprese si trovano. Allora, il punto è, e ci siamo interrogati molto anche con Mauro su questo aspetto in questi ultimi giorni, è che abbiamo scoperto che, nonostante l'elevato tasso di risparmio che su cui il nostro paese poggia, molte famiglie non sono molto disposte ad utilizzarlo in questo momento per fronteggiare la crisi economica della famiglia o dell'impresa. E poi bisognerà anche capire, nel caso in cui si riparta, dove e come ripartiranno i mercati. Per cui la prima domanda che vorrei fare al dottor Loser, che peraltro dobbiamo anche segnalare, Mauro, Arcafondi ha vinto il premio Alto Rendimento del Sole 24 Ore, ancora una volta si è confermato per il 2019 miglior gestore big italiano di fondi di investimento. Un'altra grande sfida quindi per l'industria è mantenere questi primati prossimamente. Adesso facciamo fare al dottor Loser anche una battuta su questo, ma io volevo chiederle subito, Loser, un commento generale su quello che stiamo vivendo in questi giorni. Cosa succede fra le mura di una società di gestione del risparmio quando si verificano queste situazioni? Voi come le affrontate anche al vostro interno? Poi andremo a tutto il resto, a tutto il contesto. Grazie. Beh, sono situazioni che vorremmo non affrontare, ma che siamo obbligati ad affrontare. Noi da un lato dobbiamo chiaramente mantenere l'operatività al 100%, sia per quanto riguarda sottoscrizioni e riscatti, sia per quanto riguarda la gestione del rischio dei portafogli, e lo dobbiamo fare non potendo andare in ufficio e sapendo che comunque ci sono dei colli di bottiglia nel sistema non dipendenti da noi quando ci sono dei movimenti di mercato dovuti a dei flussi colossali che il mercato fatica a smaltire. Per cui è chiaro che noi dobbiamo molto velocemente da un lato darci un'infrastruttura una nuova organizzazione dei processi in grado di rispondere a queste sfide, dall'altro chiaramente dobbiamo fare delle riflessioni molto veloci ma anche molto approfondite su cosa sta succedendo nei mercati e qual è il modo migliore per proteggere o aumentare il valore dei nostri investimenti e dei nostri portafogli. Ma dottor Loser, io le chiedo, di fronte allo smarrimento di noi risparmiatori, che sinceramente lo dico pensando di interpretare il pensiero della maggioranza degli ascoltatori, siamo disorientati, cioè non sappiamo ma che dobbiamo fare, dobbiamo vendere, dobbiamo comprare, dobbiamo stare fermi, quando finisce questo essere sballottati dagli indici e cosa vediamo più avanti? Voi cosa ci potete dire? Perché guardi, forse più che di numeri abbiamo bisogno di rassicurazioni quasi psicologiche, dottor Loser. Certo, quando si è in mezzo a una tempesta non è una buona idea lasciare la barca, bisogna stare sulla barca e cercare di venirne fuori. E quindi è chiaro che il nostro compito di reagire a mente fredda al posto di risparmiatori meno esperti che chiaramente cercano di reagire con l'emotività. Noi vediamo sicuramente dei grandi flussi che sono in qualche modo generati da un panico globale che si è generato a fronte di movimenti di mercato diciamo molto forti, ed è chiaro che da un lato noi ci siamo protetti e dall'altro cerchiamo di riposizionare i portafogli dove ci sono delle grosse chiamiamole inefficienze o dall'altro lato opportunità. Faccio due esempi. Nel momento del grande panico, due asset, due attività sono andate giù con tutto il resto, che sono l'oro e il bond a 10 anni americano, no, il treasury americano, che sono i due asset rifugio, i due beni rifugio per eccellenza. È chiaro che passato qualche giorno, cioè quelle sono state delle grandi opportunità, passato qualche giorno sia l'oro che il treasury sono risaliti in maniera anche molto importante. No? Questo dà un po' l'idea di perché non bisogna vendere alla cieca, ma cercare di capire cosa sta succedendo e cosa vendere e poi dall'altro lato cosa comprare. C'è poi un altro tema molto importante, che una volta deciso cosa vendere e cosa ricomprare, bisogna saperlo anche fare, ovvero i mercati non funzionano bene nel momento di panico ed è chiaro che c'è un modo, che magari è comprare i singoli titoli eccetera, che è inefficiente perché nel panico non si trova il prezzo per poter vendere, quando si vuole comprare si compra molto caro, piuttosto che invece alcuni derivati molto liquidi o alcuni derivati diciamo non quotati ufficialmente che ti consentono di spostare il rischio del portafoglio da un asset all'altro. Ricordiamo sempre che si tratta, appunto, come diceva anche lo stesso dottor Loser, di strumenti che vanno maneggiati da mani esperte, da persone esperte, perché da gente che non è del ramo, come è appunto chi vi sta parlando, si rischia di farsi molto male. Deborah, ci daresti cortesemente gli aggiornamenti sui mercati finanziari? Ma con grande piacere. Le borse. Sentiamo, amici di Radio 24, la borsa. Di denari. E non a lunedì nero. Scusate tanto, ma in tutto questo casino hanno approfittato per rimetterci sulla schiena l'Italia? Vorrei capire perché, se nonostante le ripetute informative del governo riguardante il blocco delle rate del mutuo già in atto, la mia banca continua a dire che non ha ricevuto disposizioni da parte del governo per la sospensione del mutuo. Com'è possibile tutto ciò? Mi dite come fa a non essere una crisi sociale quanto persone che lavoravano in nero oppure lavoravano per la mattina si alzavano per guadagnare 30 euro in campagna per mangiare oggi questo non si può più fare. Come mangiano queste famiglie? Non lo dite voi come mangiano? La vigilia di Natale. Allora, quanti argomenti, Mauro? All'Italia, sì, c'è dentro anche all'Italia nel decreto legge 18. Peraltro oggi c'è anche il decreto legge 19, quello che riordina un po' tutto quanto la produzione normativa, ma soprattutto, come è stato spiegato in questi giorni, inasprisce le sanzioni per i contravventori, cioè per coloro che non rispettano le indicazioni. Sulle banche, sui mutui, Deborah, non dico niente, già abbiamo... No, non dire niente. Ecco. Già abbiamo sollecitato gli istituti. Esatto. Prego. E devo dire che ci sono già delle candidature di alcuni grandi istituti di credito che hanno raccolto il nostro messaggio, e da domani qualcuno cominceremo a sentirlo, perché ha ragione l'ascoltatore. Io ho bisogno di fermare il mio mutuo perché non riesco a pagarlo e le banche rimbalzano perché aspettano delle istruzioni, quando in realtà possono tranquillamente intervenire in via spontanea e autonoma sostenendo la propria clientela. Quindi non è sempre necessario avere la circolare o l'istruzione appunto dell'ABI o l'istruzione dalla casa madre, e quindi insomma un po' di senso di responsabilità da parte di tutti. Noi lo stiamo raccomandando da giorni e lo chiediamo soprattutto alle banche in questo momento. Detto questo, non è il caso di rifare un altro editoriale. Io volevo introdurre un altro argomento, Mauro. Tu lo sai bene perché ci sta capitando, ci stanno scrivendo in questo periodo anche molti consulenti finanziari che ci chiedono di aiutarli a diffondere le notizie nel modo giusto, con il tono giusto, senza naturalmente diffondere panico, perché già le persone sono spaventate dal contagio e dall'emergenza sanitaria e poi chiaramente anche di tutte le ricadute economiche che stiamo vivendo. Allora, il risparmio degli italiani è molto consistente, dicevamo, però sembra che in questo periodo nessuno sia disposto a toccarlo, e questo ce lo segnala anche un consulente finanziario che abbiamo voluto interpellare questa mattina, che vorrebbe raccontarci proprio cosa sta succedendo in questo periodo nella relazione con i clienti. Poi vorrei commentare queste situazioni anche con Ugo Loser. Paolo Sopranzetti, buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno Deborah e buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato. Ci dica, allora, Paolo, che cosa sta succedendo? Beh, diciamo che questo è un momento storico per la categoria professionale alla quale appartengo, sia quella dei consulenti finanziari, perché come dicevate voi durante la trasmissione siamo tenuti a un doppio sforzo. In primis uno sforzo personale di contenere la nostra emotività, perché chiaramente noi siamo tutti padri, madri, fratelli, sorelle, genitori, eccetera, e quindi stiamo vivendo queste informazioni purtroppo molto drammatiche che ci arrivano quotidianamente sull'evolversi della situazione sanitaria con grande apprensione. Però proprio per la nostra categoria professionale invece dobbiamo dare quel supporto, quello di cui parlava Mauro poco fa, quello di contenere lo smarrimento di tutti gli investitori che in questa fase sono, come dicevi poco fa Deborah, sono spaventati sia dalla situazione sanitaria, ma soprattutto dalla situazione finanziaria che si sta abbattendo in queste settimane sui mercati finanziari. Il nostro sforzo molto importante, veramente intenso, è quello di sostenere i nostri clienti, stargli vicini, fargli vedere, filtrare le informazioni in ambito finanziario ed economico per ricondurle il più possibile nella sfera della razionalità, e, diciamo, abbandonare in questo campo invece quella dell'emotività, che purtroppo in questa fase ci attanaglia un pochino tutti quanti. Per farlo ovviamente ci servono delle informazioni giuste, e quindi, e come dicevi poco fa, anche gli organi di stampa, di informazione debbano far frittare, secondo me, dei messaggi anche incoraggianti e sicuramente di atteggiamento proficuo in questo momento riguardo alla pianificazione finanziaria. Il signor Loser prima parlava appunto dell'errore tipico che si commette in questi casi, ossia quello di vendere ai minimi, soprattutto in questa fase di panico, per poi riposizionarsi magari fra qualche mese, quando speriamo questa emergenza passerà, sui massimi, quindi vendere ai minimi e comprare ai massimi, che è un po' purtroppo lo sbaglio che si commette in queste situazioni. E il nostro sforzo, ecco, quello dei consulenti finanziari, in questo momento è stare semplice è una parola sbagliata, perché in realtà è uno sforzo veramente molto, molto complesso, cliente per cliente, portargli quelle informazioni, quella quella razionalità per non perdere mai i benefici di una pianificazione finanziaria che va avanti da tanto tempo e che fino a un mese fa aveva dato i suoi frutti. E quindi noi ragioniamo anche su una tipicità italiana. Noi, lavorando con il risparmio degli italiani, siamo comunque consapevoli delle grandi risorse che comunque gran parte degli italiani, chi più chi meno, detiene come forma di risparmio, no? Noi viviamo, per esempio, un dato aggiornato a pochi giorni fa diceva che ci sono oltre 1.700 miliardi di liquidità sui conti correnti, quindi noi dormiamo, tra virgolette, su un risparmio molto importante, e in questa fase va in qualche modo sfruttato, in primis non intaccando e quindi in qualche modo penalizzando una pianificazione finanziaria, ripeto, che magari va avanti da tanto tempo e che è stata fatta appunto con un'ottica di medio e lungo periodo. Quindi senza intaccare, certo, in questa fase quel piano che è stato impostato di medio e lungo periodo, quindi riconsiderare l'ottica temporale e mantenerla sempre viva davanti a sé, e poi invece sfruttare, appunto, come diceva anche Loser poco fa, questa situazione per intervenire un po' per volta, ove possibile, dove c'è anche grande, in questo caso, fiducia su una ripresa dei mercati finanziari, perché è vero che i mercati hanno delle fasi molto violente come queste, però altrettanto vero che nella storia i mercati finanziari salgono sempre, quindi sfruttare, certo, questo calo un po' per volta per rientrare con grande parsimonia su alcuni asset che sono scesi tantissimo e che sono assolutamente attraenti. Per cui Paolo, stiamo andando verso la chiusura di questo blocco. Comunque abbiamo capito assolutamente il senso del messaggio, che è mediamente, generalmente condiviso dal mondo della consulenza finanziaria, dai professionisti del mondo degli investimenti. Poi mi rendo conto che tradurlo in operatività individuale per i singoli risparmiatori è molto più complicato. Ugo Loser, credo che anche nei vostri contatti quotidiani con il mondo della consulenza, voi siete dei gestori di fondi di investimento, quindi avete, come dire, consulenti indiretti, quelli che operano per conto vostro attraverso il canale bancario e reti appunto di consulenza finanziaria, ma credo che le domande e i punti che sui quali vi confrontate con il mondo della consulenza siano esattamente quelli proposti da Paolo Sopranzetti poco fa. Assolutamente, noi interagiamo continuamente con le nostre reti e con i nostri distributori proprio per cercare di spiegare come ci si deve comportare in queste fasi, partendo dal presupposto che noi siamo geneticamente programmati per fare scelte contrarie ai nostri interessi. Gli ultimi Nobel per l'economia sono state date sulla finanza comportamentale, che ha certificato questo fatto. Quindi, prendendo consapevolezza che istintivamente noi facciamo delle scelte sbagliate che ci penalizzeranno, noi dobbiamo cercare di avere un approccio razionale che con distacco guarda alle opportunità di investimento e alla situazione, dove giustamente noi oggi viviamo una fase di grande incertezza rispetto a quella che saranno le politiche di uscita dalla crisi, e a fronte della grande incertezza i mercati sono scesi in maniera molto rilevante. Vendere a questi livelli chiaramente è proprio la ricetta per poi trovarsi in liquidità quando i mercati riscattati su, no, ci riporteranno a reinvestire, avendo perso un pezzo importante della nostra ricchezza. Allora, teniamo, cara Debora, comunque qualche punto fermo in tutto questo tourbillon di mercati. Ad esempio, noi il giovedì facciamo sempre un domandone. Allora, è giovedì, facciamolo. Assolutamente. Allora, in apertura di trasmissione vi abbiamo raccontato di un indice molto particolare, non è proprio un indice di quelli che vengono citati sempre da Debora nei suoi collegamenti, ma che è appunto un indice che si guarda nei tempi di crisi. L'abbiamo detto in inglese, sono due parole inglesi, se le sapete meglio, comunque telefonate per rispondere all'800240024. Come si chiama questo indice? E adesso, per favore, Filippo, traffico. Due di denari. Io non credo invece che sia il momento di invocare aiuti generalizzati a pioggia, né di promettere probabilmente oggi cose che non si potranno mantenere domani. In questo momento è opportuno che lo Stato sospenda le obbligazioni, l'adempimento delle obbligazioni di pagamento a livello generalizzato, in modo tale che nessuno possa trovarsi nella difficoltà di adempiere ad un impegno preso. Allora, non suoni irriverente, ma la scaletta ha le sue esigenze. Dicevo, non suoni irriverente nei confronti dell'ascoltatore della possibile sospensione. Abbiamo parlato anche ieri con il presidente dei commercialisti italiani, che ci ha detto che stanno chiedendo appunto una più vasta applicazione delle sospensioni per diversi generi di scadenze fiscali. Ma torniamo al nostro domandone. Dovete rispondere chiamando 800240024. La domanda è: come si chiama l'indice di cui abbiamo parlato all'inizio del programma? È un indice, vi voglio aiutare, legato un po' alla cosmetica, alla cosmesi. Cara Debora, eccomi. Da cosa vogliamo ripartire? C'è Walter che ha chiamato da una provincia a te cara, Pesaro Urbino. Sì. Che bravo. Ha un paio di domandine, secondo me, puntute anziché no. Walter, buongiorno. Grazie. Buongiorno, buongiorno Walter. Buongiorno. No, tra l'altro è interessante, allora, perché il tema che vuole porre credo che sia anche particolarmente caro a Ugo Loser. Prego. Perfetto. Due diverse, però entrambe secondo me, per me, importanti. I PIR sono già funzionanti, non se ne parla più, oppure ci sono ancora adempimenti burocratici da effettuare? I PIR nuovi, i PIR, diciamo, nuovi, sì, nuovi, dopo tutto il pasticcio, se parlato, sì. Sembrava che entro marzo dovessero emanare qualcosa, okay. Però già operano, chi può sottoscrivere, già li sottoscrive, prende denaro e li investe, oppure ancora no? Seconda domanda, collegata all'andamento dei mercati, la pesante caduta e poi la violenta, seppur parziale, recente ripresa, le sembrano entrambe giustificate o eventualmente più frutto, ad esempio, dei misteriosi meccanismi degli algoritmi? Guardi Walter, lei è stato molto sintetico e molto efficace. Debora, giriamo entrambe le domande a Ugo Loser. Assolutamente, anche perché Arcafondi ha fatto una grande anche campagna di comunicazione sul tema dei PIR, è stato uno strumento su cui questa società ha creduto molto e ha subito anche tutte le conseguenze, come dicevi tu Mauro, del pasticcio normativo dell'anno scorso. Loser, allora, l'industria in questo campo ha ripreso ad acquisire, a far sottoscrivere fondi di questo tipo nella nuova versione? Sì, noi siamo ripartiti già a gennaio, da subito, appena ne abbiamo avuto la possibilità, e riteniamo sia un'opportunità molto interessante, specialmente oggi quando molte aziende italiane si trovano a prezzi di saldo pur avendo una posizione globale estremamente interessante. Credo che non ci sia dubbio che è uno strumento particolarmente interessante e anche in qualche modo utile per il Paese. Mm-hmm. E per il quanto... tema invece dell'andamento esatto dei mercati, abbiamo avuto questo tracollo, perché non saprei definirlo diversamente, di almeno il 30% dai massimi di febbraio. Poi l'ascoltatore diceva la recente ripresa, in realtà abbiamo questa ripresa da qualche giorno un po' a singhiozzo, perché in realtà se c'è un tema che domina è quello della volatilità, quindi le borse fanno un giorno più due, più tre, poi riperdono altrettanto. Ma a parte gli algoritmi, dottor Loser, forse qua l'intervento delle banche centrali e possibilmente dei governi che sta sostenendo i listini, insomma, in questo momento secondo lei quali sono i fattori che determinano fondamentalmente, oltre all'umore e all'emotività, l'andamento dei mercati finanziari? Allora, sicuramente lo stop all'attività economica comporta dei crolli del PIL sia nazionale che globale molto significativi, se non ci sono delle reazioni di politica economica, per cui gli investitori in giro per il mondo, algoritmi più o meno misteriosi o meno, si sono veramente spaventati quando uno prova a fare i conti sulla caduta del PIL. È altrettanto chiaro che però noi viviamo in paesi che hanno delle istituzioni e una politica economica che è stata messa in campo a fronte delle politiche economiche che sono state messe in campo e che probabilmente continueranno a venire messe in campo, chiaramente i grossi crolli si giustificano di meno. Detto questo, è chiaro che l'altra cosa che causa dei crolli importanti è il livello di incertezza, perché sì che non ci sono le firme ai decreti e i soldi disponibili, no? E l'implementazione, i mercati rimangono molto prudenti. Ma dottor Loser, non è che l'algoritmo, noi lo scriviamo da tempo, insomma è una cosa diciamo abbastanza nota ormai anche al grande pubblico, gli algoritmi governano più della metà degli scambi, non è che sì, funzionano un po' come degli funzionino, proviamo a metterci il congiuntivo ancora, come degli amplificatori di tendenza, cioè quando le cose vanno bene vanno un po' meglio grazie all'automatismo degli scambi, quando vanno male vanno un po' peggio proprio perché gli scambi vanno in automatico, o non è così? Non ho capito nulla. No, una parte è così, chiaramente l'algoritmo per la gestione dei portafogli è una specie di freno, per cui quando vedo un problema chiaramente stacco il pedale dell'acceleratore e lo metto sui freni, ed è chiaro che vuol dire diminuire il profilo di rischio, che vuol dire vendere quando le cose vanno male, che è la cosa corretta. Tra parentesi, per quello che si diceva prima, noi siamo geneticamente programmati per fare esattamente il contrario contro i nostri interessi, e quindi vendere quando si sta perdendo è la cosa corretta da fare, e comprare quando si sta guadagnando è l'altra cosa corretta da fare. Sì, qualche ascoltatore ha forse un po' equivocato, lo vedo nei messaggi WhatsApp, il senso è che effettivamente, come hanno dimostrato i premi Nobel, lei ce lo ricordava prima, le nostre tendenze di comportamento appunto muovono spesso sull'onda dell'emotività e non della razionalità addirittura aritmetica, ma siamo portati un po' a reagire a qualche stimolo senza pensare, quasi verrebbe da dire, così più o meno, no, dottor Loser? Assolutamente, per cui l'algoritmo aiuta a mantenere una disciplina rispetto all'emotività che anche i professionisti possono avere. Detto questo, è chiaro che l'algoritmo per funzionare presuppone dei mercati liquidi e senza strappi. L'algoritmo in una fase in cui un mercato fa meno 12 per due giorni di fila, in quella fase lì non funziona e peggiora assolutamente le cose, per cui in molti casi chiaramente l'algoritmo viene sovrascritto, diciamo, dai gestori da un lato, però è indubbio che una parte di aumento della volatilità è anche responsabilità di alcuni algoritmi che scattano in automatico. Detto questo, non ritengo che questo problema che abbiamo avuto oggi sia causato dagli algoritmi. Questo problema è causato da una previsione del PIL di meno 10 a livello di G7. Allora stiamo parlando di numeri che noi negli ultimi non abbiamo mai visto. Sì, che hanno una loro brutalità, verrebbe da dire. Esatto. Allora, sì, un'ultima domanda al dottor Loser, poi abbiamo già degli ascoltatori pronti a rispondere al domandone di oggi. Dottor Loser, abbiamo visto in questo periodo che ci stiamo cimentando tutti in una modalità di lavoro diverso, con tutte anche le difficoltà del caso, perché lei stesso me lo raccontava, incontrando in remoto un sacco di consulenti e tutti i nostri funzionari, abbiamo riscontrato per esempio un problema di carenza di banda. Fare collegamenti con un sacco di persone tutte insieme naturalmente manifesta tutte le problematicità. Quindi in prospettiva il settore delle infrastrutture tecnologiche sarà forse un settore dalle grandi potenzialità per quello che riguarda l'investimento. Questo per arrivarle a chiedere quali nuove opportunità potrebbero affacciarsi anche come temi nuovi di investimento, quali invece saranno messe definitivamente in crisi da questa inedita situazione. Credo che questo in qualche modo indica due categorie di problematiche. Da un lato, chiaramente delle opportunità di sviluppo, di investimento e di necessità di migliorare l'ampiezza della banda di revisionare i processi aziendali, di diciamo istruire una o radicare una nuova cultura per quanto riguarda le interazioni, no? E lo sfruttamento di questa della tecnologia che avevamo a disposizione ma che non usavamo al suo potenziale. Dall'altro lato credo che questo indichi anche una strada precisa di quale devono essere le politiche economiche di sussidio a questa grande recessione che potremmo dover affrontare, sul fatto che chiaramente c'è una parte del mondo produttivo che grazie alle tecnologie può rimanere no, in business e continuare a produrre, ce n'è una parte che invece per produrre non può utilizzare la tecnologia ma deve esserci fisicamente, no? Grazie dottor Loser, siamo agli ultimi 20 secondi, allora abbiamo tempo di ascoltare se Marco da Torino ha la risposta all'indice che abbiamo citato, qual era? Marco, buongiorno. Buongiorno, dunque non so se mi sto facendo influenzare dal momento finanziario, diciamo, credo la risposta... che sia l'indice di volatilità. No, purtroppo non è quello. Lilia da Varese? Sì, buongiorno. Lipstick Index. È l'indice del rossetto. Grazie Lilia, lasci il suo indirizzo. Non possiamo spedire. Teniamo notevolmente i vostri recapiti per quando le cose miglioreranno. Grazie Deborah, grazie Ugo Loser, amministratore delegato di Arca Fondi SGR. Noi torniamo domani, Deborah.